Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Ora 5 di esse erano stolte e 5 prudenti. Infatti le stolte, quando presero le lampade, non pensarono di prendere con sé l'olio, mentre le prudenti, insieme alle lampade, presero anche dell'olio nei vasi. Poiché lo sposo tardava a venire, tutte, vinte dal sonno, si addormentarono. Ma a mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e misero in ordine le loro lampade. E le stolte dissero alle prudenti: «Dateci del vostro olio, poiché le nostre lampade si spengono». Le prudenti risposero: «No, che non abbia mancare per noi e per voi, andate piuttosto a comprarvelo dai venditori». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, giunse lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui nella sala del banchetto, e la porta si chiuse. Più tardi arrivarono anche le altre vergini, le quali dicevano: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità vi dico, non vi conosco. Vigilate dunque, poiché non sapete né il giorno né l'ora». Allo stesso modo, infatti, un uomo in procinto di partire chiamò i propri servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo le proprie capacità. Poi partì. Senza perdere tempo, quello che aveva ricevuto 5 talenti andò a trafficarli e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello che aveva ricevuto 2 talenti ne guadagnò anch'egli altri 2. Ma quello che ne aveva ricevuto 1 solo andò a scavare nella terra una fossa e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo viene il padrone di quei servi e li chiama al rendiconto. Si presentò quello che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi desti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». Gli disse il padrone: «Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, entra nel gaudio del tuo signore». Si presentò poi quello dei 2 talenti e disse: «Signore, mi desti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». Gli disse il padrone: «Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, entra nel gaudio del tuo signore». Infine si presentò anche quello che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, sapevo che tu sei un uomo severo, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per questo ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, prendi ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e infingardo, sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Per questo avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, in modo che al mio ritorno avrei potuto ritirare il mio con l'interesse. Perciò toglietegli il talento e datelo a quello che ne ha 10. Infatti a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo infingardo gettatelo nelle tenebre esteriori, là sarà pianto e stridore di denti. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua maestà, accompagnato da tutti i suoi angeli, allora si siederà sul suo trono di gloria, e davanti a lui saranno condotte tutte le genti. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra, i capri invece alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: «Venite, benedetti dal Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi sin dall'origine del mondo, poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, ero pellegrino e mi ospitaste, nudo e mi copriste, infermo e mi visitaste, ero in carcere e veniste a trovarmi. Allora i giusti diranno: Signore, quando ti vedemmo affamato e ti demmo da mangiare, assetato e ti demmo da bere? Quando ti vedemmo pellegrino e ti ospitammo, nudo e ti coprimmo? Quando ti vedemmo infermo o in carcere e venimmo a trovarti? E il re risponderà loro: In verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Quindi dirà a quelli che stanno alla sinistra: Andate via da me, o maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi seguaci, poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, ero pellegrino e non mi ospitaste, nudo e non mi copriste, infermo e in carcere e non veniste a trovarmi. Allora risponderanno anche loro, dicendo: Signore, quando ti vedemmo aver fame o sete, essere pellegrino o nudo, infermo o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora risponderà loro dicendo: In verità vi dico, ciò che non avete fatto a uno di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E questi se ne andranno al castigo eterno, i giusti invece alla vita eterna.